piano, non ho fretta di arrivare. Prendo tempo, vado piano, non ho fretta di arrivare. Il mio orologio non ha giorni, ma emozioni da contare. Sulla giostra il mondo gira, io sto fermo ad aspettare. Prendo tempo, vado piano, non ho fretta di arrivare. Ho poche carte sotto il letto e molte lune nel cassetto. Una lente d'ingrandimento per studiare ogni istante. Prendo tempo, vado piano, non ho fretta di arrivare. La mia sveglia suona solo quando sono riposato. Ho pecorelle da contare ed una gatta di nome Amore. La sua pelle è una poesia da imparare a memoria. Sto fermo ad aspettare.